Giù dalle brande, il primo Viagra radiofonico. Viagra? Ma è sicura? No, mi scusi, ho scambiato i fogli. Giù dalle brande, il primo purgante radiofonico. Ecco, così ci siamo già di più.